Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay, capitolo 11, Gay tra sessualità e sensi di colpa. Il capitolo che segue è una riflessione su un atteggiamento non comunissimo ma neppure raro tra i ragazzi gay, cioè l'autodegradazione, il convincersi di avere grossi problemi da risolvere e di essere incapaci di risolverli. Ma non intendo qui riferirmi ai problemi derivanti dalla timidezza o dall'autorepressione, intendo invece riferirmi ad atteggiamenti di autodegradazione provati da ragazzi con comportamenti sessuali piuttosto liberi. Sono consapevole che questo capitolo potrà provocare perplessità e che a qualcuno potrà sembrare oggettivamente un capovolgimento del più comune modo di pensare in materia, ma credo che valga la pena di correre questo rischio. Partiamo da una premessa. Tutti noi abbiamo in mente dei modelli di integrazione tra affettività e sessualità e dei modelli di relazione di coppia. Questi modelli possono essere dei punti di riferimento, ma possono anche essere la causa di un disagio percepito dai ragazzi in termini di impossibilità o presunta impossibilità. Va sottolineato molto chiaramente che i modelli di integrazione affettività-sessualità, come i modelli di vita di coppia, rappresentano appunto dei modelli cui spesso è molto difficile, se non impossibile, conformarsi. Sono cioè dei modelli puramente teorici e sostanzialmente lontani dalla realtà. Cerco di riassumere il concetto tramite un esempio concreto. È ovvio che, almeno in teoria, la perfetta integrazione di affettività e sessualità è altamente desiderabile, come lo è una vita di coppia in cui la fedeltà sia assoluta, ma di fatto raggiungere la piena integrazione tra affettività e sessualità è molto difficile, come lo è il mantenere un'assoluta fedeltà di coppia, in particolare quando la vita di coppia presenta delle tensioni o le scelte alla base del rapporto di coppia non sono state fatte del tutto liberamente, o lo scambio affettivo col proprio partner non è realmente profondo. Con questo intendo dire che perché in una relazione di coppia si arrivi alla perfetta integrazione tra affettività e sessualità e a una fedeltà reciproca totale, devono essere verificate delle precondizioni che spesso non sono verificate. Una relazione nata con qualche difetto originario non realizzerà comunque i modelli ideali di vita di coppia. E questo non è colpa di nessuno, ma è implicito nelle premesse. Spesso però i ragazzi gay si valutano molto negativamente proprio sulla base del mancato conseguimento di quegli obiettivi e compiono un ulteriore salto logico riconoscendosi originariamente essi stessi inadeguati. Anche e soprattutto per i ragazzi più disinibiti sussiste l'idea di essere in qualche modo ossessionati dal sesso, di essere incapaci di viverlo in una dimensione affettiva secondo i modelli teorici che si sono dati. Qui occorre fissare dei chiari punti di riferimento. La sessualità è un interesse fondamentale per tutti i ragazzi. Pensare al sesso è una cosa naturale, non una fissazione patologica. Esistono anche le dipendenze dal sesso, ma bisognerebbe usare questa categoria con molta prudenza per evitare di psichiatrizzare con troppa facilità dei comportamenti che originariamente hanno ben poco di patologico, ma che vengono vissuti come patologici proprio a causa del fatto che sono presentati come tali. L'omosessualità stessa era ritenuta patologica fino a pochi decenni or sono, e ancora oggi certi comportamenti sono spesso considerati come parafilie patologiche. L'esibizionismo e il voyeurismo sono stati ritenuti comportamenti patologici, ma capiamoci bene, un ragazzo che si compiace del proprio sesso e lo ostenta online ad un altro ragazzo, magari in una situazione sessualmente coinvolgente, non ha nulla a che vedere con le persone che vanno in giro compulsivamente a mostrarsi nude a passanti del tutto ignari. E così un ragazzo che spia l'amico o l'amica che fa la doccia non ha nulla a che vedere col voyeurismo. Estrapolando questi due esempi, moltissimi comportamenti nell'ambito della sessualità, pur non rientrando nei modelli tipici di integrazione sessualità-affettività e nei modelli tipici di relazione di coppia, non hanno comunque nulla di patologico. Aggiungo un'osservazione. Siamo tutti cresciuti in un clima in cui la dimensione sessuale è nettamente sopravvalutata, sia in positivo che in negativo. Così come esistono comportamenti sessuali dai quali ci si aspetta la felicità, che non ne segue praticamente mai, così esistono altri comportamenti ai quali siamo portati ad attribuire un valore distruttivo della vita affettiva, cosa che non è affatto detto che accada. La fedeltà sessuale spontanea è indubbiamente un sintomo di benessere di coppia. Quando si tradisce, a maggior ragione quando si tradisce ripetutamente, si è portati a dare di sé dei giudizi fortemente negativi, a sentirsi colpevoli per essere andati a cercare sesso al di fuori della coppia. Più che farsi dominare dai sensi di colpa, sarebbe più utile riesaminare la propria vita di coppia alla ricerca di quello che non va. Il tradimento, che si risolve in una condizione psicologica peggiore di quella precedente, non porta a costruire una nuova relazione, ma manifesta solo l'insofferenza verso la vecchia. Il vero problema delle autodegradazioni dei ragazzi gay sta nell'ipotizzare una propria incapacità originaria di reagire conformemente ai modelli teorici adottati e di conseguenza nel dare una valutazione ontologica di sé come incapace, inaffidabile, traditore, eccetera, eccetera. Spesso la ricerca irrequieta della sessualità ha ben poco a che vedere con la sessualità nel senso tecnico ed è la trasposizione sul piano sessuale di altre esigenze di tipo largamente affettivo. La sessualizzazione dell'affettività è una realtà comune e spesso un ragazzo che cerca frequentemente contatti sessuali non è dipendente dal sesso, ma manifesta in quel modo il suo desiderio di affetto. Il comportamento di questi ragazzi appare a loro stessi come del tutto centrato sulla sessualità, ma in realtà, quando vengono meno le condizioni per creare e per mantenere dei rapporti sessuali, il rapporto affettivo dura comunque, cosa che non accadrebbe se l'interesse sessuale fosse di fatto l'unica pulsione a tenere in piedi il rapporto. Un ragazzo che avverte i suoi comportamenti sessuali non in linea con i modelli di integrazione sessualità-affettività e con i modelli tipici della vita di coppia, che vive una vita di coppia in cui il cosiddetto tradimento è frequente e non soddisfacente, tende a reagire colpevolizzandosi e sentendosi in qualche modo irrecuperabile, ma i sensi di colpa non sono certamente il miglior modo di reagire. Bisognerebbe chiedersi che cosa c'è a monte che non soddisfa, tirando le dovute conclusioni. Se il rapporto di coppia è vissuto realmente come un valore, è possibile uscire dalla catena dei tradimenti ripetuti. Se il rapporto di coppia è radicalmente insoddisfacente, è bene evitare di portare avanti situazioni che generano più preoccupazioni che gratificazioni. Avere tradito il proprio ragazzo non è di per sé una bella cosa, ma un fatto del genere non può distruggere definitivamente dall'interno l'autostima del ragazzo che ha tradito. Qualsiasi situazione può essere modificata profondamente se lo si vuole veramente. Spesso invece si ha l'impressione che la scelta più facile sia l'abbandonarsi a una posizione tendenzialmente passiva e fatalistica, del tipo sono fatto così, non sono affidabile, non valgo nulla. L'avere tradito il proprio compagno anche ripetutamente non significa affatto che non si provi affetto per quel ragazzo. Potrebbe anche essere così, ma non è scontato a priori. Molto spesso nei confronti del tradimento si registrano atteggiamenti molto rigidi e moralistici, e non ci si sforza di capire che cosa ci può essere dietro il tradimento. Questi atteggiamenti sono in genere profondamente interiorizzati dai ragazzi che hanno tradito il partner e si producono così delle autocondanne senza appello, cui seguono talvolta stati depressivi che si potrebbero evitare vedendo il tradimento come il segno di un disagio di coppia e non come un qualcosa che marca definitivamente la persona che tradisce con una specie di bollo indelebile. L'autostima è uno dei pilastri del benessere individuale, ma è un pilastro la cui solidità dipende fortemente dal vissuto individuale. Una delle cose peggiori che si possono fare è togliere ad un ragazzo la stima di sé ed appiccicargli un'etichetta di inaffidabile, di maniaco sessuale o di ragazzo fissato col sesso. La realtà è spesso completamente diversa da come viene rappresentata attraverso questi appellativi. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.